gioco. E qua se ti vedi qua da qui là ogni tanto ci rompevo qualche vetro, poi perché ridire a raccontare, aspetta, dopo devi scrivere il nome di lui, come si chiama e tutto, no? Allora, qua si giocava la lipa una volta, che era un pezzettino di legno con delle punte all'estremità. Un pezzo di bastone si picchiava sulla punta, si alzava e bisognava buttarla lontano. Però bisognava anche chi era dalla parte opposta prenderla con un cappello prima che andasse a terra. Se la prendevi avevi vinto, se andava a terra vinceva quello che... Poi si contavano dei passi, si contavano, per vedere chi la mandava più lontano. Poi qua c'era lunedì, si metteva qua tutte le massaie che lavavano, facevano il bucato con il mastello, tutti i lunedì. Questo succedeva sempre a lunedì mattina, finivano il lunedì pomeriggio che lavavano il bucato. Tutto il bucato che c'era? Tutto il bucato della settimana, si faceva un giorno alla settimana perché non c'era la lavatrice come adesso. Si cambiavano e facevano tutto il mucchio. E a lunedì, da mattino, con il mastello e l'asse, si mettevano là, spazzolavano e finivano sempre di pomeriggio, perché era tanta la roba. Siccome che lavoravano nei campi, non avevano il tempo di lavare tutti i giorni. Allora un giorno alla settimana era dedicato al bucato, si prendeva a lunedì. Ma anche le donne andavano Anche le donne andavano nei campi, sì, certo, anche le donne andavano nei campi. E ma quando le donne andavano a lavorare nei campi, i bambini chi li curava? C'era sempre quella più anziana che stava a casa a curare i bambini, perché le famiglie non erano come adesso. C'erano le famiglie, magari due o tre famiglie abitavano assieme, due o tre fratelli abitavano tutti nella stessa casa, poi ognuno aveva la sua camera da letto, però a mangiare si metteva tutti... C'era una famiglia nel cortile di là, erano in 32, ma erano 4-5 famiglie, 4-5 fratelli che si radunavano e c'era la donna, la nonna diciamo, più anziana, che faceva da mangiare per tutti. Facendo da mangiare non è che come oggi si metteva il tovagliolo, la porchetta, prendeva nel cassetto del tavolo una manciata di porchette e le mettevano in mezzo al tavolo, ognuno si serviva a prendere la sua roba, perché sennò ci voleva troppo tempo a apparecchiare la tavola. Bello così, veloce. E per riscaldarsi si accendeva il camino in casa. Nel camino chi era fortunato che aveva la camera sopra, nel soffitto c'era una vecchia botola che la aprivano che il calore andava su. E quindi faceva caldo. Si scaldava su, chi l'aveva. Ma io che abitavo qua proprio in questa porta e andavo a dormire là dove abito adesso, non avevo niente da riscaldarmi. Non c'era, partivi di qua che avevi sonno prima che arrivavi là. E come facevate a scaldarvi? E prendevi nella stufa, nella stufa c'erano dei mattoni raffrettari, li mettevi nel forno della stufa, dopo la sera quando andavi a dormire prendevi quelli, lo mettevi in un sacchetto e lo mettevi dentro il letto, il mattone caldo. Mattone caldo, se no facevi la bolla dell'acqua calda. Ah, mettevi l'acqua calda. L'acqua calda per scaldarti i piedi. E se no faceva freddo. Chi era fortunato che aveva la camera sopra. Ma là c'erano solo le stanze, quindi dove ci sei te adesso? Sì, dove sono io non adesso. C'era la cucina, non c'era no, niente. No, sotto era rustico. Dormitorio, cioè dormivi e basta. Dormivi sopra e basta, perché mio papà abitava con suo fratello e la zia. Erano tre famiglie, la zia e due fratelli. E abitavamo tutti qua. Allora, la zia dormiva sopra perché era più anziana. Si dava la stanza più calda. La stanza più calda. L'altra zia dormiva su quella finestra lì e mio papà andava in fondo a dormire perché non c'era spazio per uomini tutti qua. Uomini al freddo. Al freddo? Sì, sì, certo, al freddo. E a scaldarti, quando avevi mangiato la sera, andavi in stalla con le mucche, scaldarti perché... Perché... Non c'erano soldi da comprare legna, carbone, dovevi risparmiarti e tenere... Ma nella stalla la sera cosa facevate? Andavate solo a dormire o giocavate? Nella stalla si andava sempre a riscaldarsi, ma allora quando... si chiacchierava del più del meno, poi quando era una certa ora c'era la donna più anziana che diceva il rosario, dopo il rosario tutti a nanna. E non vi raccontavate le storie? Sì, si raccontavano delle storie, del più, del meno, uno raccontava la sua storia che ha avuto, ma non è che si chiacchierava tanto, più di tanto, eh? Ma con la donna anziana che diceva il rosario, lo dicevate poi tutti? Sì, la donna diceva il rosario, tutti rispondevano al rosario. Quando era finito il rosario, dopo erano tutti liberi di andare a dormire, ma fino al rosario nessuno andava via. Sì, ma mangiavi alle 7, alle 8 eri già nella stalla, e fino alle 9, 9 e mezza. Ma dopo... Ma ero piccolo, da quello che mi ricordo da piccolo, io avevo una stalla qua, posso fare l'angolo. E più o meno dove sei dentro, c'è con la tua casa, era la mia stalla. Dietro lì. E come vi vestivate? Ti vestivi normale come oggi, non così robe firmate perché non esistevano. Magari nella famiglia c'erano più figli, il più grande non gli andava bene un vestito, glielo passava sempre quello più dietro. Anche tra cugini, tra parenti si passavano i vestiti. Come succede anche adesso? Come succede anche adesso, solo che adesso a una certa età dici basta, voglio, invece prima dovevi metterlo. Perché non c'erano soldi come oggi da comprare vestiti, ti dovevi arrangiare. Poi che prendiamo il foglio, la carta da scrivere, prendiamo, ci facciamo. Finché ti andavano bene ci passavano sempre i vestiti. Ma voi bambini andavate a scuola? Sì, a scuola tutti andavano a scuola. Però si faceva a scuola fino alla quinta elementare. Ma prima ancora di me usavano solo la terza. Dopo i miei tempi è cominciato a arrivare la quinta elementare. Prima la terza elementare finivi. E dopo della quinta elementare andavate a lavorare? Eh sì. Io a 11 anni andavo già a lavorare a 11 anni. Nei campi? No, nei campi già prima andavi nei campi. Quando già da 7-8 anni andavi già nei campi. E invece quando finivi la quinta? Quando finivi la quinta ti mandavano a lavorare. O nei campi, ma cercavano sempre di mandarti da qualcuno che ti pagasse, che ti dasse qualche soldo. Anche tipo dei falegnami? Dei falegnami. Io sono andato a fare l'imbianchino da 11 anni. Mi hanno mandato a fare l'imbianchino. I miei tempi si andava a scuola, al giovedì non si andava a scuola perché si andava al sabato. Si faceva dalle 9 alle 12 meno un quarto. Tutti i giorni? No, via del giovedì. Giovedì era un giorno di riposo, di anziché fare sabato rompevano la settimana. Facevi dalle 9 alle 12 meno un quarto, dalle 2 meno un quarto fino alle 4 meno un quarto. E tutti gli altri giorni fino a che ora andavate? 4 meno un quarto. Però vabbè, si partiva di qua, andavamo a Usmate a piedi. E quindi facevate tanti chilometri? E andare a Usmate a piedi tutti i giorni. E Usmate prima com'era? Era come qua, i campi ce n'era un po' di più perché hanno costruito un po' più case, no, i campi erano come questi. Come se volete scrivere adesso, volete appoggiarvi dentro in casa? Qua che è caduto parte. Qualcosa, un cappuccio di una penna. Qualcosa. Ma se voi riascoltate queste interviste e scrivete le cose o cosa fate? Io sto registrando. Anche questo. Dopo cosa c'era ancora? I vestiti, i lavori, si lavorava nei campi. Quando c'era che si lavorava nei campi, quando c'era il periodo del frumento, che bisognava tagliare il frumento, che si tagliava a mano, si andava al mattino nei campi, si ritornava la sera, neanche al mezzogiorno si veniva a casa a mangiare, perché c'era quella casa che cucinava e gli portava da mangiare nei campi, non venivano a casa. E di solito nelle stagioni tipo in primavera cosa facevate? E in primavera come adesso si preparava tutti gli attrezzi per i campi. C'era la manutenzione, rastrelli, e tutti gli attrezzi che occorrevano nei campi si faceva manutenzione. E d'estate? D'estate si lavorava i campi, non c'era tempo per gli attrezzi. E non si raccoglieva? Sì, c'era il raccolto del grano turco, del frumento. E d'autunno piantavate le cose? D'autunno si seminava il frumento di autunno. E in primavera il grano turco. L'hai segnato allora, primavera? E d'inverno? D'inverno faceva le scope con le scope di saggina, si metteva giù della roba che poi d'inverno tiravano giù i chicchi, li mettevano a essiccare per l'anno dopo e con il rifiuto di quei chicchi lì d'inverno facevano le scope i contadini. Non c'erano le scope come adesso, erano tutte scope di saggina che... Scope di saggina, preparate con i... E si coltivavano i balsi, si allevavano i balsi da seta. I balsi da seta devi chiederlo alla signora che andiamo come si raccoglievano. Aspetta che si vede le scope di saggina, come che faceva, venivano fatte? Non so più come si chiamava quella cosa lì, là. E dopo guardiamo sul libro se è su. Dopo glielo diciamo la signora. Si ripulivano dai semi e le gambi venivano usati per fare le scope. Basta, scrivi tutte le cose. Tu poi dopo provate, ascoltate l'intervista, lo scrivete. Non mi ricordo più come si chiamavano. No, riascoltate l'intervista e dopo lo scriviamo bene giù, tutte le domande. Sì, vabbè, 10 minuti che parli. Cosa vuoi sapere, Atru? Prova a chiedi se so. È lei l'intervistatrice, non so. Sì, veramente, lei fa un sacco di domande, Grazie. Adesso non ho detto le cose. Lo spazio interno della cascina. Aspetta, scusa, non ho capito. Lo spazio interno della cascina c'erano tipo i servizi igienici? I servizi igienici sono quelli che ti ho detto là dove hai fotografato la stalla. I servizi igienici c'era, ognuno fuori dalla sua stalla aveva il servizio igienico, ma quindi non c'era l'acqua. Quindi uscire fuori? Sì, tutti fuori bisognava andare, ma non c'era l'acqua come oggi, C'era un metro quadro, mettevano due mattoni con un buco, che poi quello lì, il contadino, veniva tutto raccolto per concimare i propri campi. Non si sprecava niente. E i spazi comuni dove stavate tutti, quali erano? Il maggior spazio comune era la stalla. Perché specialmente ma c'erano grandi e piccoli. Grandi e piccoli, tutti, anzi, se c'era uno che aveva la stalla più grande, si radunavano tutti assieme perché che si chiacchieravano, ognuno diceva la sua, poi quello c'era che quella che faceva la maglia, la cucinava la. Cuciva la maglia con gli aghi, faceva. Un foglio per tutte e tre, non è che o che resta per non farlo e poi dopo uguale. Con le foto ecco, che scaricate, ecco, vedi, se vuoi poter fare la torre di qua, Denise, qua la vedi ancora meglio, guarda, adesso sta registrando, niente, ne ho già fotografate due volte, adesso spegni un attimo, no, vabbè, tanto ho già fotografate tre volte, tanto più o meno le cose le avete chiesto all'Umberto, dopo no, scrivete quell'anziana, quella signora che lo mandava. Niente! Dirò il badge dalla casina. O dirò il badge dalla casina, più che tu niente, che credo che la sappia. Mi quel cassone fino in me tengo, dimmi, ma. No, badge, che va nero. Fate le domande lei, che lei. Si allevavano i bacchi da seta. Ecco, i bacchi da seta, quanta che ricava lì. Si allevavano i bacchi da seta? Si allevavano i bacchi da seta? Andavamo a prenderli da uno che faceva l'allevamento. Li portavamo a casa come formiche. Si sente? E poi li mettevamo sulle tavole, che mettevamo le tavole in casa, mettevamo sotto la carta e si mettevano sotto le foglie dei gessi. Che mangiavano le foglie dei gessi. E qual era i giochi che faceva lei? Quali erano i giochi che faceva lei da piccola? Li allevavamo, dopo mangiavano qualche giorno, poi dormivano un giorno e dopo si svegliavano, mangiavano ancora, sempre che noi ci davamo le foglie dei gessi. Adesso non ci sono più. E i giochi che faceva da piccola quali erano? Io? Non c'erano i giochi che c'erano adesso. Ma i giochi antichi. Come gli amici. Saltare alla corda. E allora con un gioco di miei, e dopo si giocava a nascondiglio. Nascondino. Fuori. Si giocava alla palla. La palla. E di che cosa era fatta la palla? La palla di gomma come quelle che sono adesso. La palla era sempre di gomma. C'erano quelle piccole che si giocavano sul muro per prenderli. Li buttavamo sul muro per prenderle, no? Ma i palloni come adesso non c'erano. che adesso i ragazzi hanno tutti i palloni colorati, diversi, appesate. Quanti e altri giochi di bambina, qualche altro gioco da bambina, un po' diverso. Non avevamo io i giochi. Le bambole non c'erano. Sì, bambole sì. C'erano quelle di pezza. Le bambole di pezza. Che facevo, che li fanno anche adesso. Quelle bambole con la pigotta, sì, lì, adesso ci dicono le pigotte. Con le sì, con i capelli di lana. Sì, sì, come quelli che fanno adesso. E loro una volta non c'erano le bambole belle come vestiti come che vengono fuori adesso, che parlano, che camminano. No. Io eravamo 5 sorelle. Una bambola. Quando veniva la Befana, la mamma me la tirava fuori, me la facevo vedere, quel giorno lì e basta. E non si giocava. Dopo si metteva via per l'anno prossimo. Ecco. Solo vederla. Ma cantavate canti particolari, facevate danze particolari? No, in casa non è che andavamo in giro. A cantare qualche canto all'inverno qualche... andavamo in stalla dove c'erano le mucche a scaldarsi, perché adesso non c'è. E cantavate qualche cosa con le sorelle, qualche canzone, qualche... Ne ho cantate io di canzoni, ma adesso non si ricorda più. Tante le inventavate voi le canzoni? Le inventavate voi le canzoni? Ma non lo so, sono che adesso cantarli, i giovani di adesso non li sanno. E si fanno si facevano di quei canti belli. Io eravamo in tante sorelle. E c'era una sorella, io sono del 19. Aspetti, del 19? 1919? Sì, ho 89 anni. 89 anni. Lei come si chiama? Mi regali Antonia. Antonia, è nata qua? 4 dicembre 19. 4 dicembre. E il suo stato civile? Sposata? Sì. Sì, qui, sono qui io qua con 3 figlie. Casa insieme, sì. È nata qua a Usmate? Eh? È nata qua a Usmate? Sì, sì. Sempre la frazione, e poi una volta non andavamo all'ospedale, nasceva in casa. È nata in casa? Sì. Si nasceva... È nata in Cascina? Sì, sì. Prima abitavo là in Cascina, dopo col tempo qui c'era una casa vecchia e l'abbiamo sistemata. Ha sistemato la casa vecchia? Da 33 anni che sono qui, 50 anni che sono sposata. E lei andava nei campi a lavorare? Non tanto, perché il primo anno che sono sposata sono andata un anno ancora a lavorare, perché ho sempre lavorato a Carnate in fabbrica, dalla seta, lavoravamo nella seta. Dopo che sono sposata sono andata ancora un anno, dopo sono stata a casa che aspettavo la prima figlia, dopo non sono andata più perché c'era la famiglia grossa, non eravamo in pochi come adesso, 2 persone, c'era il suocero, tutti insieme nella stessa casa, 3 cognati, cioè, tutti una famiglia grossa. L'antigit potere, 33. C'era una famiglia da 27 persone qui in Cascina. Che cosa mangiavate? Non si mangiava la bistecca come adesso. Cara, alla mattina il pane giallo, si faceva la cos'è il pane giallo? Cos'è il pane giallo? Il pane di segale. Che fanno adesso, pane... Di segale. Pane di segale. Sì, segale, sì. Si faceva la zuppa su quel pane. Noi dicevamo il pane giallo. E la polenta si mangiava? Sì, tutte le sere. La polenta era il pasto giornaliero, sempre polenta. E di carne cosa si mangiava di carne? Guarda, se eri fortunata mangiavi la testa della mucca. Coniglio no? No, che coniglio? No, avevamo su le galline. Le galline. Sì. Ogni tanto una gallina. Gallina ogni tanto. Si mangiava noi. La domenica magari. Sì. Sì. La Natale Pasqua. E quando era l'imposoppo la uccidiamo. Ecco, ecco. Maiali non ce n'erano. Sì. Maiali. Sì, per il nostro consumo. Avevamo le stalle con le mucche, maiale per noi. Mucche, maiali e galline, gli animali. Qualche vitello. Sì, i soliti. Le solite bestie che avevamo noi erano quelli. Il contadino aveva sempre o il cavallo o l'asino, il contadino l'avevano tutti. Cavallo o asino. Lei aveva il cavallo o l'asino? Io avevo il cavallo. Ma il cavallo lavorava nei campi, trainava Si lavorava la primavera quando c'era il grano turco, le patate. Ah ecco, grano turco, patate. Grano turco, patate. Il fiene per le mucche. E il latte fresco della mucca, scommetto. Sì. E il formaggio. Quello lì era il nostro. Non c'era il lattaio che veniva qua. La mattina il latte fresco. La zuppa di pane di segale la mattina. E nel latte. Il latte lo facevamo cagliare, ci faceva i formaggini. I formaggini freschi formaggini da spalmare sui pani. No, no, quelli che si condivano con l'olio all'aceto. Questo è quello che ti ho fatto fotografare là dove avevi i nidi delle rondini. Li facevamo noi con il nostro latte. Questo è il pozzo. Le capre c'erano? La... No. Adesso ti cerco la ghiacciaia. Capre e pecore qui no. Capre no. Non era il posto. Questo era il vecchio portone. Le mucche, i vitelli. La mucca, quando c'era la mucca, questa magari avevamo anche il vitello. Dopo quando era grosso, lo davamo al macellaio. Mangiavate un po' di carne. No, apri i soldi. Per prendere qualcosa. Apri i soldi. Perché non c'erano soldi. Non c'era tanto commercio come adesso. Adesso più ne prendono, più ne spendono. La facevate la pasta fatta in casa? C'erano di quelli che avevano passione di farla, non tutti. Io l'ho mai fatta. Chi aveva la passione la faceva. Ecco, c'era il lavoro da fare. Giù quella c'erano già altre cose pesanti da fare. Dove hai visto la scala? C'erano che altri giù. Lavori pesanti da fare. Lavori di casa, per noi. Quando avevamo tanto latte, si faceva riso e latte bianco. Se vuoi, latte. Qualcosa si riso e latte, sai com'è buono. Ogni tanto lo faccio adesso. Riso e latte. Poi mi dà la ricetta, mi provo a farlo anch'io. Non ti interessano? Come erano? Sai cosa metto dentro? Latte. Con un bicchiere d'acqua insieme, vedi, vecchio, di vecchi burro, come erano costruiti, di sale, le cascine venivano costruiti, bisogna tenerlo mescolato così. Perché va, e va, ecco. Ogni tanto lo faccio ancora adesso, che i miei nipotini, nonna, quando mi fai il riso e latte? Buono. Io mi ricordo che mio nonno ci faceva mangiare la polenta con latte, faceva la polenta fredda e ce la faceva pucciare nel latte, mi ricordo. Oh, no, anche calda è buona. Io quando faccio, anche adesso faccio la polenta. Polenta e latte. Anche se faccio la buccia, faccio quello. Dopo devo mangiare un goccino di latte con la polenta. Mi ricordo mio nonno che ci faceva. Sì, sì. Era la nostra, il nostro pasto che avevamo, eh. Ti puoi tenere questo qua? Dai, fate qualche altra domanda. Martina ha intervistato il giorno, ma questa me la sta attenta. Sì, Steven, sai quante domande gli ha fatto a lui? Tutta la strada... quel che sapevi, ma dopo quanti ne andrei in pacchetto 7 cicli a... Lì un bico vizzi. Li portavamo a casa proprio come le formiche. E dopo, sai cosa facevano i ragazzi di lì? Sì. Quando erano grossi, facevano il bozzolo, come la sua casetta. Il bozzolo era come una... per dire... Come fanno le farfalle. Eh? È uguale come fanno le farfalle. Sì, sì. Ma dopo, quando erano belle, dopo... tiriamo giù del bosco perché arrampicavano sul bosco quando erano lì a fare la sua casetta. Poi andavamo alla filanda di Carnati. Carnati c'era la filanda che i bosoli facevano la seta, le matasse di seta. Qui a Carnati si faceva quel lavoro lì. Ti ricordi che portavamo i bosoli là alla filanda? Sì, quello che si rimette a Whiskey Town, ma il bosco di Roldiga è più cavolino. Ti arrampicavamo sul bosco, io mi il bosco, quando andavo in busca, facevo le caselle sì. Dopo, quando erano maturi, che dovevano fare la sua casetta, andavano su quella piantina lì, di come il brugo delle scope. E andavano su, facevano il suo bosolo. E dopo li lasciamo, non so quanti giorni che si lasciavano, e poi li tiravamo giù, pulirli bene, e poi li portavamo alla filanda di Ternate, che c'era un stabilimento che lavoravano con la seta. Quando c'erano questi bosoli, loro li mettevano dove dormivano e loro andavano a dormire sui fienili, per lasciargli il posto ai bosoli, perché... In casa si mettevano delle... E su cose in canna di bambù, delle canne di bambù, si legavano assieme, si faceva come un piano. C'era, ogni tanto c'era un piano, c'era un caso, le nostre case, io avevo schifo, non mangiavo, avevo schifo quando c'erano quei bosoli, non è che avevo... No, non di frutti soli, tieni tutte le spalle. Ce l'hai lì, così, eh? Fine. Aspetta che dopo faccio una foto anche alla signora. Signora, posso farle una foto? Possiamo farle una foto, signora? Dopo mi guardano tutti! Perché è ancora bella! Resta l'intervista... L'intervista e dopo sappiamo chi è, dobbiamo scrivere il nome. Allora, fagliela a te, Denis, con la macchinetta. E cavoli, mamma, ho finito l'intervista.